Nel frattempo, madre e figlio erano diventati inseparabili. Lei gli raccontava storie della casa dei Wu, di suo padre, la Hanlin della foresta dei pennelli, di suo fratello Felice Promessa che aveva attraversato l'oceano e di sua madre Gioia di Loto, un tempo famosa come la bellezza della capitale settentrionale. A sua volta lui le parlava della sua vecchia casa, di come dormisse coi maiali quando il canale gelava, di mamma che aveva cucito i musi di tigre sulle sue scarpe. Di papà che era forte e lo portava in spalla al vicino villaggio. L'una di primavera raccontò le avventure del re scimmia che era andato in Occidente e il bambino le cantò le canzoni di ceneri sapienti. Lui si divertiva col volano e insieme giocavano a biglie a nascondino. Quando lui si nascondeva dietro una porta e lei non riusciva a trovarlo, lui rideva e rideva di nuovo quando lui la trovava senza difficoltà. Era molto sveglio. Non passò molto che abbandonò l'aspro gutturale dialetto dello Shantung per parlare mandarino, con una traccia delle morbide tonalità di Xuchao imitandola. Quando partirono per il villaggio delle canne, aveva imparato 30 caratteri e non si stancava mai di sfregare le tavolette d'inchiostro sulla pietra calamaio e di tracciare le parole nei quadratini che lei gli aveva preparato sulla carta. Al villaggio del Hanlin, il bambino compiva i riti con grande solennità. Il giorno della pura luminosità spazzò le tombe, sistemò le offerte e fece kutù davanti agli antenati della casa dei Wu come se conoscesse da sempre questi doveri. Secondo l'usanza, lui e Luna di Primavera fecero merenda fra le tombe, cosicché agli antenati fossero associati i momenti di gioia e le offerte non andassero sprecate. Come era previsto, quando i riti furono compiuti, il patriarca del clan dei Wu offrì loro generosamente una casa nel villaggio delle canne. E sempre secondo l'usanza, Luna di Primavera rifiutò con grande rammarico. Tornarono a Pechino. Lei sistemò gli affari della suocera, scrisse a talento coraggioso che si sarebbe recata a Shanghai per il diploma di Giada Lucente insieme col figlio adottivo del Hanlin. Vendette i mobili, restituì le chiavi al padrone di casa e licenziò le serve. Quando il nono giorno della quinta luna salirono sul treno per Shanghai, Piccolo Tesoro aveva messo da parte le sue vecchie scarpe e portava quelle nuove di cuoio. Mentre il treno correva verso sud, Piccolo Tesoro era sempre più eccitato e Luna di Primavera sempre più ansiosa. Lui non riusciva a togliere gli occhi dal finestrino e lei da lui. Nessuno dei due parlava granché. Come sono perversi gli dèi, pensava lei. Cambiano il desiderio in timore e viceversa, con la stessa ineluttabilità con cui le stagioni ritornano diverse a seconda degli anni. Una volta ancora era su un treno con un figlio, come prima, eppure non completamente come prima. Una volta ancora questo figlio non aveva padre. Una volta ancora lei e Talento Coraggioso si sarebbero incontrati a Shanghai. Le lettere di lui invocavano il passato. Un passato che lei aveva messo da parte come foglie raccolte in un lontano autunno e conservate fra le pagine di un libro. Ora lei tornava e lui l'aspettava e il bambino le era ancora più prezioso. Quel che lei e suo padre avevano conosciuto insieme poteva continuare a vivere soltanto in lui. Cercava di non soffermarsi sulla sua imminente riunificazione con Giada Lucente, dicendosi che sarebbe stata molto gioiosa, come poteva essere altrimenti. Madre e figlia insieme dopo tanti anni. Eppure talvolta, osservando Piccolo Tesoro, l'assalivano i dubbi. Al suo ritorno avrebbe trovato sua figlia ad attenderla, oppure il loro legame era stato accantonato come le scarpe vecchie del bambino. Il viaggio era quasi finito quando lui le chiese: Sao Sao, a Shanghai e a Xuchao mi chiameranno tutti col mio nome di nascita? Non ti sembra che Piccolo Tesoro sia un nome stupido per un ragazzo che sa leggere? Così è a questo che hai pensato tutto il tempo, gli lisciò il ciuffo. Forse è ora che tu abbia un nome da letterato. Quale? Ci ho pensato anch'io. Devi avere qualcosa in comune col nome del tuo fratello maggiore, Felice Promessa. Quanto all'altro, credi che ti piacerebbe essere chiamato Promessa Costante? Il bambino annuì. In pochi minuti gli insegnò a scrivere i caratteri. E per il resto del viaggio lui si esercitò finché riuscì a tracciarli perfettamente. Ogni tanto alzava gli occhi verso di lei e sorrideva. Il sorriso era come il suo e gli occhi come quelli di Talento Coraggioso. Quan Yin misericordiosa pregò, fa che non se ne accorga. Nella affollata stazione di Shanghai, Promessa Costante saltellava avanti e indietro, sbirciando tutti quelli che passavano sotto l'orologio, dove avevano deciso di incontrarsi. Luna di Primavera, altrettanto impaziente, lo teneva stretto per mano, guardando di qua e di là per vedere se comparivano Talento Coraggioso e Giada Lucente, descrivendoli al bambino, ma non scorse alcun volto familiare. Proprio mentre stava per chiedere se vi fosse un altro orologio altrove, si avvicinò un giovane azzimato in un abito di lino bianco. Era in mezzo a due altri stranieri in magnifiche uniformi verde scuro e con berretti dai galloni dorati. Chiaramente è un uomo importante e si inchinò. Benvenuta, zia. Luna di Primavera doveva essersi mostrata stupita perché egli rise allegramente. Zia, sono io, 20 d'agosto. Che cosa era accaduto a quel ragazzino paffuto che stava così poco attento alle lezioni? L'uomo davanti a lei non era alto, ma comunque snello. Il suo abito era impeccabile, la catena del suo orologio d'oro, grossa come tagliatelle di Shanghai. 20 d'agosto, come sei cambiato! Lo pensi veramente? Rise di nuovo come se nascondesse un segreto. Il suo sorriso con le fossette era così contagioso che anche Luna di Primavera si ritrovò a ridere e si accorse solo in seguito che i suoi lineamenti non erano eccezionali. Promessa Costante la tirò per una manica. Sao Sao, sono generali? Stava studiando i forestieri. 20 d'agosto era molto compiaciuto. È possibile, è possibile. Perché chi può veramente sapere che cosa siano questi russi bianchi? Si chinò finché il suo naso fu all'altezza di quello del bambino. Ma io so esattamente chi sei tu. Tu sei piccolo tesoro. No, ho un nome da letterato, gonfiando il petto proclamò. Sono Promessa Costante. Davvero? Che bel nome ha mio zio. No, no, insistette il bambino. È il mio nome. Sì, lo so, ma tu sei anche. E 20 d'agosto si inchinò ancora più profondamente. Il mio stimato zio. E si inchinò di nuovo. Il mio onorevole zio. È vero, Sao Sao? È vero? Promessa Costante batté le mani estasiato. Luna di Primavera annuì, ma la sua mente era improvvisamente volata via dal loro piccolo divertimento e quando 20 d'agosto si raddrizzò gli chiese: Dov'è lo zio anziano? Dov'è? Giada Lucente. Egli manda le sue scuse, rispose 20 d'agosto. Ha avuto un impegno all'ultimo momento e mi ha chiesto di venire qui al posto suo. Ha cercato di persuadere la scuola a lasciar venire Giada Lucente con me, ma le missionarie erano molto sospettose e hanno ritenuto più opportuno che vi incontriate domani durante la cerimonia del diploma. Si strinse nelle spalle, gli occhi scintillanti. Forse. Sì, domani sarà meglio, pensò Luna di Primavera e scacciò subito il pensiero. È colpa mia! La voce di 20 d'agosto reclamava la sua attenzione. Io gliel'ho detto che sono suo zio, ma ovviamente non mi hanno creduto. Sono proprio sfortunato. Sembra che nessuno mi creda. Ma il suo tono fiero lo smentiva e lei non poté fare a meno di sorridere fra sé. Era pur sempre un ragazzo. Ma proprio mentre lei faceva questa riflessione, lui si trasformò di nuovo. Prendendo in mano la situazione, mandò uno dei suoi uomini a occuparsi del bagaglio e l'altro a cercare l'automobile, facendo disinvoltamente strada attraverso la folla, chiacchierando tutto il tempo, manifestando la sua gioia nel rivedere l'insegnante di un tempo. Quando ebbero attraversato l'ingresso principale e furono in strada, si fermò. Che cosa c'è, 20 d'agosto? Chiese lei. Lui indicò con fare noncurante una lunga, elegante auto che scintillava come la superficie di un lago al tramonto. Guarda, la mia freccia penetrante. Promessa Costante lasciò andare la mano di Luna di Primavera e corse per toccare quello splendido oggetto senza quasi credere ai propri occhi. Estasiato, sorrise e si voltò per scrutare l'autista in piedi accanto alla porta aperta. Guarda, Sao Sao, mi vedo riflesso 6 volte! E indicò i 6 lucenti bottoni sulla giacca dell'uomo. Prima che lei potesse parlare, apparvero le guardie del corpo. I due russi sollevarono contemporaneamente il bambino in aria, mettendolo su uno dei sedili anteriori. Anche 20 d'agosto e Luna di Primavera salirono sulla macchina. Seduta, Luna di Primavera scuoteva la testa, sorridendo fra sé. 20 d'agosto annuiva, come se le leggesse nel pensiero. Zia, nemmeno io posso crederci, ma è mia, veramente. Le guardie del corpo corsero alla manovella sul davanti della macchina. La freccia penetrante fu percorsa da un tremito e un attimo dopo era in moto. Mentre le guardie del corpo saltavano sul predellino dell'auto in corsa e si infilavano nel sedile accanto a Promessa Costante, l'autista fece suonare la tromba a beneficio della folla in ammirazione. Il suono fece sussultare il ragazzo, che si girò di scatto verso l'una di primavera, ma l'autista, ridacchiando, gli prese una mano e gli fece schiacciare il bulbo. Bonk, bonk! La folla si sparpagliò. Promessa Costante era raggiante, come un imperatore che cavalchi il più feroce dei draghi. Lungo la strada, 20 d'agosto indicava i posti interessanti: il suo ristorante preferito, il suo orologiaio, la sua bottega del tè, il suo sarto. E così facendo, riempiva le pause di silenzio e allontanava i pensieri inquietanti. A cena li divertì con alcune storie, ma subito dopo il pasto si scusò. Un'importante questione d'affari. L'una di primavera avrebbe desiderato che rimanesse, distraendola coi suoi discorsi, poiché la casa sulla Bablingwell Road era esattamente come lei la ricordava, soltanto i servi erano nuovi. Promessa Costante era assonnato, ma lei aveva deciso di aspettare il ritorno di talento coraggioso. Non voleva trovarsi sola con lui, perlomeno al primo incontro. Era l'ora del cane quando una macchina si fermò davanti alla casa. L'una di primavera scosse dolcemente il bambino che dormiva accanto a lei su una sedia. «Svegliati, fratellino!» mormorò. «Sta arrivando!» Promessa Costante aprì gli occhi e li richiuse di nuovo. No, devi svegliarti! Lo scosse ancora. L'una di primavera si alzò. Lui stava sulla soglia. Lei abbassò gli occhi, poi lo guardò di nuovo. È invecchiato, pensò. O forse dipende soltanto dal fatto che non lo vedo da tanto tempo. Lui aprì le braccia e fece per avanzare verso di lei. Poi si fermò perché lei aveva alzato una mano e si era fatta da parte, mostrandogli il bambino. Fratellino, alzati! Il piccolo si tirò faticosamente in piedi e, aggrappandosi alla sua gonna, si strofinò gli occhi assonnati. Lei sentì lo sguardo di talento coraggioso, consistente come un abbraccio. Spostò rapidamente Promessa Costante in mezzo a loro e rimase lì, con le mani sulle spalle del bambino. Luna di primavera, fece lui di nuovo. Lei non osava parlare. Che cosa poteva dire? Doveva capire. Ciascuno aspettava che l'altro rompesse il silenzio e infine fu il bambino a parlare. Sao Sao, questo onorevole signore è il nostro nonno? Fra le lacrime e le risa lei si limitò a scuotere la testa guardando suo figlio. Talento coraggioso uscì in una risata triste e fece cenno a Promessa Costante di avvicinarsi. Il bambino guardò Luna di Primavera come per averne il permesso. Lei annuì, cercando di parlare, ma senza riuscirvi, poi lo allontanò dolcemente da sé. Prendendo il bambino per mano, Talento Coraggioso lo portò verso la poltrona, dove sedette con la sua consueta grazia, lasciando un po' di posto per Promessa Costante, che vi si arrampicò sopra e sedette con aria solenne, le punte delle scarpe nuove rivolte all'insù. «Chi siete, signore?» chiese garbato guardandolo. Talento Coraggioso annuì, ma non rispose, come se non avesse udito la domanda. In tono rispettoso, il bambino glielo ripeté. Non sono certo vecchio abbastanza da essere tuo nonno, disse poi lui con dolcezza, ma sono lo zio di Sao Sao e perciò anche tuo zio. Il bambino si accigliò. Ma Sao Sao mi aveva detto che hai i capelli neri. Talento coraggioso lanciò una rapida occhiata a Luna di Primavera. Forse intendeva l'altro zio. La sua voce si spense. Sì, proprio così, si affrettò a spiegare lei. Soddisfatto, il bambino tirò una manica a Talento Coraggioso. Zio, io mi chiamo Promessa Costante, disse fieramente. Oh, ma è un nome da letterato. Non posso credere che un bambino della tua età possa scrivere i caratteri di un nome tanto importante come Promessa Costante. Ma certo, gridò lui felice. Afferrò Talento Coraggioso per il braccio, gli aprì la mano e usando l'indice vi tracciò sopra vari segni. Chi te li ha insegnati? Sao Sao. Sao Sao ti ha detto chi è stato il suo maestro? Promessa Costante sembrò non udirlo. Era tutto assorto a tracciare segni e a dire ad alta voce il significato di ciascuno dei caratteri che conosceva. Casa, cavallo, cielo. Mentre stavano seduti così, fianco a fianco davanti a lei, a luna di primavera sembrò così evidente che l'uomo e il bambino fossero padre e figlio. La somiglianza delle loro alte fronti e dei loro occhi intensi e dei loro gesti balzava subito agli occhi. Durante le pause delle loro conversazioni guardavano entrambi verso di lei con la testa leggermente inclinata di lato. Certo, talento coraggioso se ne sarebbe accorto. Doveva? No, no, non doveva. Come mai era stata tanto sciocca da pensare che potessero incontrarsi e restare stranieri l'uno all'altro? Quando fu portato a termine l'ultimo tratto del carattere scrivere, l'uomo e il bambino risero insieme e la guardarono come per sollecitare la sua approvazione. Zio, vi prego, ora scrivete il vostro onorevole nome per me, chiese Promessa Costante alzando verso di lui la piccola palma aperta. Non posso. Talento coraggioso chinò il capo come se avesse vergogna. Il bambino arrossì, aveva fatto perdere la faccia a un anziano, costringendolo a rivelare di non saper leggere o scrivere. No, non posso, ripeté Talento coraggioso scuotendo la testa. Guardando verso l'una di primavera, tacque un istante e poi sorrise. Lei cercò di sorridere a sua volta, ma non ci riuscì e abbassò gli occhi. Non ha capito, pensò, non sa. E si domandò come mai si sentisse tanto sola. Improvvisamente, Talento coraggioso rise. Promessa costante, non sentirti a disagio. Stavo solo scherzando. So scrivere, ma la tua manina è troppo piccola. Basterebbe un tratto e un uncino per riempirla. Una volta ancora guardò verso l'una di primavera. Gli occhi velati ora nascondevano il suo dolore. Poiché lei non reagì, si rivolse di nuovo al bambino. Vieni con me, disse. Vieni con me a vedere la biblioteca e ti insegnerò a scrivere come un vero calligrafo. Devi esercitarti perlomeno una volta al giorno. L'una di primavera rimase a osservarli mentre si allontanavano verso la stanza attigua, tenendosi per mano l'uomo chino sul bambino. Li seguì lentamente e sedette sulla sedia più lontana dalla scrivania a osservare. Talento coraggioso era tutto indaffarato a preparare la lezione. Solo una volta i loro occhi si incontrarono quando si tolse il rosario dalla tasca e lo mise sul tavolo. Sì, le sue tempie erano grigie ora e aveva rughe intorno agli occhi. Dimostra la sua età, pensò lei improvvisamente. 62 anni. Era passato così tanto tempo. Lui aggiustò i peli del pennello e insegnò al bambino come preparare l'inchiostro, osservando con soddisfazione i suoi progressi. L'una di primavera non distoglieva gli occhi un istante. Il padre, il figlio, l'avevano dimenticata. Si alzò e fece per unirsi a loro, ma si fermò quando vide che stavano parlando a bassa voce. Si schiarì la gola. Dirò ai servi che sei arrivato. L'uomo e il bambino scoppiarono a ridere e lei fuggì dalla stanza. Mentre veniva apparecchiata la tavola, l'una di primavera mise a letto il bambino. Poi raggiunse Talento coraggioso nella sala da pranzo. Mangerai qualcosa, nipote? No, abbiamo cenato prima insieme a 20 d'agosto. Lui la guardava dritta negli occhi, eppure non sembrò aver captato quanto gli aveva detto, perché ripeté la domanda. Quando lei gli rispose come prima, lui distolse rapidamente lo sguardo e le chiese: Che cosa ne pensi del nostro orfano? Per un attimo lei credette che alludesse a Promessa Costante, poi, arrossendo, scoppiò a ridere. Ah, 20 d'agosto! Racconta tante storie, una più strabiliante dell'altra, che non si può fare a meno di considerarlo un malandrino, e tuttavia. Sì, lo penso anch'io, completò la frase per lei. Nessuno ha un cuore più generoso. Cadde il silenzio. Talento coraggioso toglieva a sovrappensiero le spine del pesce. Infine, l'una di primavera chiese. Come sta mia zia? Mia moglie sta bene, non vede l'ora di riaverti a Shuqiao. E io non vedo l'ora di incontrarla. Siete ottime amiche. La guardò, eppure non lo si sarebbe mai immaginato. Perché? Lei è la persona più gentile che abbia conosciuto. Sì, è la più comprensiva. Già, la più comprensiva. Di nuovo silenzio. L'una di primavera si versò una tazza di tè e prese a sorseggiarlo. Si udiva il ticchettio dell'orologio a muro, eppure il tempo sembrava non passare. Le assi del pavimento gemevano a ciascun passo del vecchio servo che sparecchiava. L'osservavano andare e venire, andare e venire, finché lasciò soltanto il servizio da tè. Quando furono di nuovo soli, entrambi fecero per dire qualcosa nello stesso istante, poi si interruppero entrambi per lasciare parlare l'altro, ma nessuno ricordò quel che voleva dire. Infine, l'una di primavera chiese: «Dov'è il giovane zio ora?» È tornato insieme a Sun con l'idea di fare di Canton una seconda capitale. Ci riusciranno? Non credo, non finché gli stranieri continueranno a riconoscere Pechino. Non so se nemmeno mio fratello vi creda più, ma non avendo alternative, insiste. Lei annuì. Talento coraggioso. Si schiarì la voce e disse a voce molto bassa: «Tu però sei sempre la stessa.» «Oh, invece sono cambiata, zio. Non per me, non per me.» Lei si protese per toccarlo. La mano di lui tremava e rapidamente la ritirò dal tavolo. Lungo il corridoio, illuminato dalla luna, il padre seguì le grida soffocate fino alla camera del figlio. Promessa Costante era rannicchiato sotto il copriletto, tremante. «Perché i bambini piangono di notte?» Talento Coraggioso cercò di ricordare. «Cosa c'è?» chiese a bassa voce. «Non piangere! È stato un brutto sogno!» Il bambino scosse la testa. Lentamente le lacrime cadevano come soldati coraggiosi che marciavano davanti al re. «Era uno spettro!» «Io...» Poi non seppe più trattenersi. «Non voglio morire! Non voglio morire come la mia vera madre! Perché devo morire?» Talento Coraggioso gli mise un braccio intorno alle spalle, confortandolo. «Ci sarebbero troppe persone, non vi sarebbe spazio per coltivare le piante o per giocare. Se nessuno morisse, il mondo diventerebbe insopportabile. Così è meglio avere una sola stagione e vivere ogni minuto finché viene l'ora di raggiungere i nostri antenati e le nostre antenate.» Il bambino annuì: «Dimmi, come sarà la morte? Ricordi com'era prima di nascere?» Scosse il capo. «Hai avuto qualche brutta sensazione?» «No. Io credo che la morte sarà così.» «Ne sei sicuro?» «Sì. Ora sdraiati e io resterò qui finché non ti sarai addormentato.» La Fenice di Giada. 25. Il diploma. All'epoca della dinastia Liang vivevano un leale soldato, la sua buona moglie e la loro devota figlia Mulan. Un giorno l'uomo si ammalò gravemente. Poco dopo venne la chiamata imperiale alle armi. «Prepara il mio cavallo!» disse il padre, ma si reggeva a malapena in piedi. «Come puoi stare a cavallo, marito mio?» «Ci riuscirò! Devo riuscirci!» si ripromise il soldato, ma svenne. Per preservare l'onore, Mulan indossò l'uniforme del padre e partì per la guerra al suo posto. Per 12 anni guidò gli uomini in battaglia. Non una sola volta il generale svelò il suo segreto. Storia cinese. 6 anni fa lasciammo i cortili dei nostri antenati ed entrammo in questi luoghi del sapere. Oggi entriamo nel mondo per compiere l'opera di Dio. Luna di primavera sedeva con 20 d'agosto, Promessa Costante e Talento Coraggioso nella terza fila di banchi della cappella, ascoltando distrattamente la figlia che pronunciava il cosiddetto discorso da Dio. «Discorso da Dio!» ripeté l'espressione sorridendo fra sé. L'aveva presa soltanto oggi, leggendo il programma, e accanto a quella Margaret Wu, il nome che le missionarie avevano dato a sua figlia. Che le fosse stato conferito quell'onore non la sorprendeva. Dopotutto la ragazza discendeva da due case di letterati eccelsi. Ebbe un'immagine fuggevole ma vivida di talento sincero, come era sempre stato, seduto alla sua scrivania con un libro aperto davanti. «Mio padre può consolarsi», pregò, «all'idea che il suo amore per lo studio sopravvive nei suoi discendenti.» La voce di Giada Lucente si fece più forte e Luna di primavera guardò di nuovo quella sconosciuta che era sua figlia, lassù, nella piattaforma. «Combatteremo l'analfabetismo e la corruzione. Noi...» Si sforzava senza successo di concentrarsi sulle parole inglesi. Alla fierezza che provava per il successo della figlia si accompagnava l'imbarazzo procurato dal fatto che Giada Lucente esortava i suoi parenti anziani. I suoi gesti erano stravaganti come quelli di un guerriero dell'opera, il suo tono aspro, quasi quasi luna di primavera, non vedeva l'ora che il discorso finisse. Le diplomate si erano sedute sul piccolo palcoscenico, una accanto all'altra, tutte con lunghe vesti nere e giacche bianche, i piedi grossi, resi ancor più goffi dalle scarpe robuste abbottonate fino in alto. Tra loro sua figlia risaltava, ancor prima che parlasse, aveva i tratti settentrionali del padre decisi, così diversi dalle delicate facce a mandorla delle sue compagne. Eppure c'era qualcos'altro, qualcosa che non era trapelato da nessuna delle foto che le aveva mandato durante gli anni della loro separazione. Qualcosa. Passò in rassegna le figure sulla piattaforma. Nonostante i loro abiti occidentali, pensò improvvisamente, le altre diplomate non erano molto diverse dalle loro cugine nei cortili. Le poteva immaginare dopo la cerimonia a chiacchierare insieme e assegnare alle compagne di scuola il grado appropriato di avvenenza. Anche il prete aveva un che di familiare, tranne che per gli occhiali rotondi le ricordava il grande veggente. Anzi, si era quasi aspettata che un uccello Minah gli facesse capolino sulla spalla quando li aveva accolti con un inchino. Lo sguardo di luna di primavera passò da lui alle missionarie che gli sedevano accanto sulla piattaforma. Le studiò a una, quelle donne cui aveva affidato sua figlia e che ora godevano della stima incondizionata di Giada Lucente. Non si assomigliavano, anche se erano tutte vestite di nero e portavano i capelli di tinte diverse, raccolti sulla testa in crocchie identiche fra loro, ma avevano qualcosa in comune, qualcosa che le rendeva così simili le une alle altre. Così simili. I suoi occhi tornarono a Giada Lucente, completò il suo pensiero. Così simili a sua figlia. Un rumore la fece sussultare e abbassò gli occhi. Promessa Costante aveva lasciato cadere la macchinina che 20 d'agosto gli aveva dato quella mattina. Arrossì, sperando che nessun altro se ne fosse accorto. Forse doveva lasciarlo a casa coi servi. Nessuno aveva portato un bambino così piccolo. Probabilmente. Non era stata molto accorta. Il piccolo tirò 20 d'agosto per la manica, ma il giovane sembrava affascinato dalle parole di Giada Lucente e fu talento coraggioso a chinarsi per recuperare la macchinina e infilarsela in tasca, dando al bambino il suo fazzoletto con cui giocare. I loro occhi si incontrarono. Per un attimo si ritrovarono lontano da quella cerimonia così estranea. Alla festa delle fanciulle, quasi 20 anni prima, lui era così solenne, lei così giovane. Lentamente sollevarono le coppe di vino. Io bevo alla tua felicità, figlia di mio fratello. E io alla vostra, zio.